Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Ci fa davvero piacere tornare a parlare oggi di studio all'estero perché, nonostante la crisi legata alla pandemia, qualche timido segnale di normalità ci sta arrivando dalle antenne dei giovani e giovanissimi studenti italiani che hanno ripreso a viaggiare per il mondo a formarsi. Nello specifico, ci trasferiremo nel corso della prossima mezz'ora in Danimarca per andare a conoscere una studentessa di soli 17 anni che lo scorso mese ha fatto i bagagli ed è partita verso il nord Europa. Da lei una miriade di suggerimenti utili per approfondire la vostra formazione a livello internazionale. In Toolbox vi forniremo una guida utile per trovare impiego in un settore molto particolare ma allo stesso tempo davvero interessante in questi tempi sempre più digitali. Con l'aiuto di un esperto del settore vi proietteremo nel mondo dei data scientist a livello internazionale. In Job Abroad rimarremo coi piedi ben ancorati in Europa grazie alle offerte di lavoro in area continentale a cura di Eures. E a chiudere, come ogni ultimo sabato del mese, le vostre lettere, quelle che inviate alla casella di posta email generazionemobile@radio24.it. Tutto è pronto per staccare il nostro e vostro personalissimo biglietto per la Danimarca. Puntiamo allora dritti verso nord. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci arriva dall'edizione 2021 della Top 50 Under 50 di QS, la classifica delle migliori università al mondo con meno di 50 anni. Le università asiatiche hanno conquistato ben 4 delle prime 5 posizioni nel ranking. La Nanyang Technological University di Singapore mantiene il suo status di giovane istituzione leader a livello mondiale, seguita dalla Hong Kong University of Science and Technology, dalla coreana KAIST e dalla City University di Hong Kong. L'Australia, con 9 università in evidenza tra le prime 50, gode di livelli di rappresentanza più elevati rispetto a qualsiasi altra nazione. La migliore giovane università europea è l'Université PSL di Parigi. La sua connazionale, la Sorbonne, si colloca in 8ª posizione. Bene, è arrivato il momento di Toolbox, dove ci concentriamo sui consigli pratici per andare oltre confine a lavorare in un settore molto particolare, quello dei data scientist, professionisti che studiano e interpretano grandi quantità di dati per ricavarne informazioni utili, informazioni sulle quali le aziende basano le proprie azioni strategiche. Lo scienziato dei dati elabora i big data, da molti considerati il petrolio del futuro. Come potete immaginare, queste sono figure professionali molto ricercate all'estero. A farci da guida in questo settore oggi con noi Aldo Razzino, Managing Director della società di headhunting londinese Open Search Network. Noi siamo specializzati sulla ricerca e selezione di profili STEM a livello internazionale europeo per opportunità a tempo indeterminato. Aldo, quando parliamo di profili STEM, calandolo nel concreto, di che professioni stiamo parlando? Stiamo parlando delle professioni del presente e del futuro, quelle specializzate in ambito Science, Technology, Engineering e Mathematics. Che poi a livello internazionale ci sono alcune interne, ci sono diverse altre competenze come le lauree in ambito fisica, in ambito astrofisico, che sono delle lauree che a livello internazionale vengono valutate molto di più. Partirei dall'inizio con i consigli pratici, Aldo, e partirei innanzitutto con quale tipo di formazione è necessaria per poter lavorare in questo settore e anche quale curriculum preparare. Allora, sicuramente bisogna partire con una laurea, almeno una laurea triennale, e poi eventualmente pensare di fare la specialistica all'estero oppure completare il percorso di laurea in Italia e di seguito andare a cercare un'opportunità all'estero. Anche in questo secondo caso consiglierei di cercare un corso di studio all'estero che permetta di avere un titolo di studio locale, oltre all'esperienza che bisogna portare dall'Italia. Per iniziare si inizia come si iniziava 20 anni fa, nel senso si cercano opportunità online, ci sono dei siti, ci sono sicuramente più opportunità, credo, a livello universitario, di scambi universitari tra le diverse università. E quindi sfrutterei i network delle università, se si arriva dall'università. Per preparare un curriculum, soprattutto per il mondo anglosassone, un consiglio al volo? Allora, un consiglio sarebbe quello di, se possibile, avere già una presenza locale nella nazione, inserire un contatto telefonico locale. Questo sicuramente agevola il primo contatto da parte dei recruiter e degli headhunter. Sconsiglio il formato europeo, non è un formato di CV gradito, sinceramente, a livello internazionale, anche a livello enterprise. Dipende da dove si manda il CV, sicuramente in UK non mettere la data di nascita, e dipende da dove si manda il CV verificare se la foto è qualcosa di gradito o no. Quello dipende molto da tipologia di azienda, tipologia di lavoro e anche location. Aldo, voi come azienda vi focalizzate soprattutto nei lavori STEM in Gran Bretagna. Allora, su questo, quali sono i tuoi consigli, siti dove cercare o comunque città più attrattive? Beh, sicuramente città Londra è il fulcro della maggior parte di tutti questi ruoli in ambito dati, anche se le grandi industrie presenti a Manchester nel nord attraggono comunque forti competenze in ambito STEM, perché hanno dei dipartimenti interni molto, molto grandi rispetto di realtà italiane. Per cercare lavoro, se arrivate senza esperienza, un'opportunità potrebbe essere quella di partecipare a delle masterclass o dei corsi di machine learning, dei corsi che ti permettono di fare dei full time, delle full immersion per 2-3 settimane sugli aspetti tecnici, e poi di sviluppare piccoli progetti in collaborazione con le aziende. Questo sicuramente ti permette di capire come le aziende lavorano e si comportano qua all'estero, qua a Londra, e di iniziare a fare un'esperienza su dei dati reali. Un altro consiglio potrebbe essere quello di partecipare a delle competition, agli hackathon. Questi sono dei modi di strumenti di gamification che le aziende usano per fare attraction di talenti. È un modo per i candidati di mettersi in gioco. Un'ultima domanda, Aldo. Uscendo dalla Gran Bretagna, quali sono i paesi secondo te più attrattivi per i profili STEM nel mondo, per lavorare all'estero? Dipende dall'ambito, dalla specializzazione che si vuol dare alla propria analisi dei dati. Sicuramente paesi del nord, l'Olanda, ma anche, ti dico, Portogallo e Ucraina possono essere delle fonti di competenze, di talenti particolari, molto specifiche e molto, molto all'avanguardia. Ed è arrivato il momento di conoscere la testimone della settimana. Si tratta di una giovane studentessa di soli 17 anni, Margherita. Sfidando il periodo complicato e le forti limitazioni alla mobilità internazionale, ha deciso che, virus o non virus, un'esperienza formativa in Danimarca doveva necessariamente comparire nel suo curriculum, e oggi è qui a spiegarci cosa significa concretamente studiare a quelle latitudini. Buon pomeriggio, Margherita Sacchetti. Buon pomeriggio. Quarto anno di liceo classico, decidi a un certo punto di partire per la Danimarca per un intero anno scolastico. Cosa ti ha spinto verso il grande salto? Ciò che mi ha spinto per il grande salto credo sia sostanzialmente la curiosità. Non solo di incontrare una nuova cultura, di una nuova lingua, ma anche la curiosità di vedermi in una situazione in cui è nuova. Sono una persona che ama programmare, quindi trovo molto intrigante vedermi in un posto completamente diverso da dove sono abituata. E perché proprio la Danimarca? Ho scelto di venire in Danimarca credo 2 anni fa, quando ho fatto un piccolo viaggetto con mia mamma e sono andata a Copenaghen, e sono rimasta molto affascinata dall'atmosfera. Ma se c'è una cosa che davvero mi aveva colpito è che ogni volta che noi aprivamo una cartina le persone venivano a chiederci se avessimo bisogno. Questa cosa qua mi è rimasta nel cuore e questa è la ragione. La notizia dell'accettazione della tua candidatura è arrivata a gennaio, poi però purtroppo è scoppiata la pandemia, le tue speranze di partire sono diminuite, fino a quando a giugno la conferma della partenza. Allora, come è avvenuta a quel punto la preparazione sia teorica che anche logistica in un lasso di tempo così breve? Allora, la preparazione teorica è avvenuta ovviamente online. Avevamo qualche attività da fare ogni settimana, piuttosto giocosa, ma sempre a sfondo riflessivo, e poi facevamo un dibattito ogni settimana a proposito dei temi trattati. Quella logistica è stata un po' frettolosa per quanto mi riguarda, perché non c'era poco tempo, però alla fine è andato tutto bene, sono riuscita a preparare tutti i documenti. E a metà agosto sei finalmente approdata in Danimarca. Allora, giusto per fare un piccolo quadro, dove ti trovi? Ci descrivi brevemente la località. Sì, allora io mi trovo nell'isola della Selandia a ovest, sono piuttosto vicino al mare, sono circa 10 chilometri da una cittadina abbastanza grande che si chiama Slagelse, ma in realtà la mia casa è nei campi, diciamo, però è molto suggestivo. E com'è stato il primissimo impatto con la scuola? Sei lì da poche settimane, ovviamente. Allora, ad essere sincera, il primo impatto non è stato dei migliori, perché la classe in cui ero stata inserita non era proprio adatta a me, ma per fortuna adesso ho cambiato e mi trovo molto molto bene, sia per quanto riguarda i compagni, sia per quanto riguarda i professori. Come si svolgono le lezioni in Danimarca? Sono molto diverse da quelle a cui eri abituata in Italia? Allora, le lezioni non sono particolarmente diverse, di sicuro c'è un utilizzo molto maggiore della tecnologia, si usa principalmente solo il computer, e poi una cosa molto particolare è il rapporto insegnante-alunno, che è quasi alla pari. Per la lingua devi sapere anche il danese o basta l'inglese? Allora, ovviamente l'inglese è importante perché soprattutto all'inizio è l'unico mezzo di comunicazione, ma ovviamente è importantissimo, credo, imparare il danese piano piano, soprattutto per sentirsi parte del gruppo e riuscire a interagire e a partecipare attivamente anche nelle lezioni. Come hai trovato l'ambiente sociale? Parlo ovviamente soprattutto dei compagni di classe. Ho trovato che sono tutti molto gentili in generale, sono tutti molto pronti, attenti ad aiutare. È vero che ho notato che sono più timidi, non è solo credo uno stereotipo, però in generale dopo un po' si aprono proprio, e in generale mi sono trovata molto bene. Abbiamo detto poco fa, vivi comunque un periodo particolare, quello da emergenza coronavirus. Allora, come affronta la Danimarca nella vita quotidiana e anche a scuola questa emergenza? Ci sono differenze con l'Italia? Sì, devo dire che quando sono arrivata qua ero molto impressionata, perché ovviamente non ci sono tutte le misure che a cui ero abituata in Italia. Tuttavia adesso in realtà le stanno un po' incrementando, anche se ho notato che sono tutti molto in generale rispettosi e attenti per quanto riguarda le mascherine e l'igienizzazione delle mani. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Sai che io ancora esattamente non ho capito. Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito? Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Sì, certo. Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100 Milan. Uno, Nessuno, Nessuno, 100 Milan. Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Margherita Sacchetti, 17enne studentessa di liceo classico, che ha sfidato i tempi difficili della pandemia trasferendosi per un anno scolastico in Danimarca all'interno di uno scambio di studi. Margherita ci sta raccontando quanto è stato diverso prepararsi a questa esperienza in un periodo così incerto e qual è stato soprattutto il suo primo impatto con la cultura scolastica e lo stile di vita danese. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Com'è la tua vita nella nuova famiglia danese? La mia vita è cambiata molto, perché si era abituata ad avere fratelli di 20 anni, adesso ho 4 fratellini, di cui il più grande è di 10 anni, però devo dire che ho trovato un ambiente molto stimolante e ne sono molto felice, mi trovo molto bene. Ci raggiunge ora in linea Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, la pandemia ha chiaramente avuto un impatto molto forte su Intercultura e sui suoi programmi. Tra febbraio e aprile siete stati costretti a rimpatriare d'urgenza 1200 studenti in quel momento all'estero. E nella nuova stagione scolastica avete però optato per ripartire, seppur in modo contingentato. Perché? Prima di tutto perché la pandemia ci ha confermato che c'è sempre più bisogno di conoscere le persone che vivono in altri paesi e il modo in cui viviamo, perché abbiamo bisogno di seguire dei comportamenti comuni. Quindi questo fa parte della mission di Intercultura. E poi perché avevamo più di 2000 ragazzi che avevano già superato le nostre selezioni come Margherita e che erano in attesa di partire. E in questo nuovo anno scolastico quanti studenti prevedete di inviare all'estero e che state inviando? Verso quali paesi, soprattutto in Europa, anche per motivi di sicurezza? Sì, sicuramente il numero complessivo sarà molto inferiore rispetto a quello a cui eravamo abituati. Al momento abbiamo 250 studenti che sono già all'estero e prevediamo probabilmente di non superare i 500 alla fine dell'anno scolastico. In questo momento sono quasi tutti in Europa, tranne poche eccezioni in Serbia, negli Stati Uniti pochissimi studenti, e in generale ci aspettiamo quindi di non poter mandare studenti soprattutto in Asia e in alcuni paesi dell'America Latina. Immagino sia anche più difficile scegliere le destinazioni adesso. Come le scegliete? In base a quali parametri anche di sicurezza sanitaria? Dunque, noi facciamo parte di una rete internazionale che si chiama AFS Intercultural Programs e ci siamo dati proprio dei parametri a livello internazionale tra tutti i partner che si basano prima di tutto sulla situazione sanitaria e di diffusione del virus nel paese, in base anche alle disposizioni del governo, e poi ad altri elementi come ovviamente la possibilità che le scuole siano aperte, ci siano dei voli per raggiungere il paese, la possibilità di ottenere i visti, e quindi comunque non mandiamo studenti in destinazioni dove non ci siano contemporaneamente tutti questi criteri positivi, diciamo. È importante anche capire il tipo di lezioni, perché insomma anche la didattica a distanza è esplosa, non solo in Italia ma un po' dovunque, quindi le scuole dove gli studenti stanno andando, che frequentano e frequenteranno, avranno lezioni in presenza, lezioni a distanza? Allora, la scuola è una parte fondamentale del programma che Intercultura propone, e siamo anche convinti che sia importante la scuola in presenza, perché nell'interazione con i giovani di un altro paese vive proprio l'esperienza interculturale, si vive l'esperienza interculturale. Noi cerchiamo di inviare gli studenti solo quando le scuole siano effettivamente aperte, ma siamo anche consapevoli che potremo assistere nel corso dell'anno a qualche chiusura temporanea, come abbiamo visto sta già avvenendo anche in Italia. Infine, fino al 10 novembre è aperto il bando per l'anno scolastico 2021-2022. In brevissimo, come candidarsi, dove trovare tutte le informazioni utili? Allora, ci si può iscrivere appunto fino al 10 novembre trovando le informazioni sia sul nostro sito internet www.intercultura.it, sia sui social media e specialmente sulla nostra pagina Instagram Intercultura.it. C'è tempo fino al 10 novembre e ci tengo a dire che questo non è poi un obbligo di fare l'esperienza, ma è solo l'inizio della possibilità di partecipare, poi fino al giorno della partenza si potrà decidere. Grazie ad Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura, e per chiudere la domanda diritto a Margherita Sacchetti, il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Il consiglio pratico che do è di ascoltare la propria curiosità sempre, soprattutto all'inizio dell'esperienza, di non avere paura di chiedere, di farsi dare spiegazioni, perché spesso magari noi non capiamo perché succedono cose, perché una persona si comporta in un modo, e credo che sia anche il modo migliore per imparare a conoscere la cultura, quindi questo è il consiglio che mi sento di dare. Bene, lasciamo la testimonianza di Margherita e diamo spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Maria Rosa Chiocca di Eures Italia. Oggi parleremo degli EOJD, acronimo di European Job Days Online. Gli EOJD sono eventi di reclutamento europei che si svolgono online, replicando virtualmente ciò che accade in una fiera del lavoro in presenza, con l'obiettivo di mettere in contatto i datori di lavoro e le persone che il lavoro lo cercano in ogni parte d'Europa. Registrandosi alla piattaforma europeanjobdaysonline.eu, le persone in cerca di lavoro potranno candidarsi per le posizioni pubblicate, sostenere colloqui di lavoro e partecipare ad una serie di workshop sui temi della mobilità e su occupazione in Europa, su orientamento, condizioni di vita e lavoro nei diversi paesi europei, senza doversi spostare da casa. I datori di lavoro potranno pubblicare le offerte, ricevere candidature e incontrare online candidati da ogni parte d'Europa, con il supporto e l'assistenza dei consulenti Eures.